القمر، la luna. بسم الله الرحمن الرحيم. In nome di Allah, il compassionevole, il misericordioso. اقتربت الساعة وانشق القمر. L'ora si avvicina e la luna si spacca. وَإِنْ يَرَوْا آيَةً يُعْرِضُوا وَيَقُولُوا سِحْرٌ مُسْتَمِرٌ. Se vedono un segno si sottraggono e dicono «è una magia continua». وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٌ. Tacciano di menzogna e seguono le loro passioni, ma ogni decreto è prefissato. وَلَقَدْ جَاءَهُمْ مِنَ الْأَنْبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. Certamente sono giunte a loro storie che dovrebbero dissuaderli dal male. Consolidata saggezza. Ma gli avvertimenti non giovano loro. يَوْمَ يَدْعُو الدَّاعِ إِلَى شَيْءٍ نُكُرٍ. Distogliti da loro, Muhammad. Il giorno in cui l'araldo chiamerà qualcosa di orribile. خُشَّعًا أَبْصَارُهُمْ يَخْرُجُونَ مِنَ الْأَجْدَاثِ كَأَنَّهُمْ جَرَادٌ مُنْتَشِرٌ. Usciranno dalle tombe con gli occhi bassi, come locuste disperse. مُهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ يَقُولُ الْكَافِرُونَ هَذَا يَوْمٌ عَسِرٌ. E si precipiteranno impauriti verso l'araldo. Diranno i miscredenti, ecco un giorno difficile. كَذَّبَتْ قَبْلَهُمْ قَوْمُ نُوحٍ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. Prima di loro il popolo di Noè già tacciò di menzogna. Tacciarono di menzogna il nostro servo e dissero, è un pazzo. Lo diffidarono dal predicare. فدعا ربه أني مغلوب فانتصر. Invocò il suo Signore. Sono sopraffatto, fa trionfare la tua causa. ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر. Spalancammo le porte del cielo ad un'acqua torrenziale. وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر. E da tutta la terra scaturirono sorgenti e le acque si mescolarono in un ordine prestabilito. وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ. E lo portammo su quella fatta di tavole e chiodi. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر. Navigò sotto i nostri occhi. Fu il compenso per colui che era stato rinnegato. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. La lasciammo come segno. C'è qualcuno che se ne ricorda? كيف كان عذابي ونذر. Quale fu il mio castigo? Quali i miei moniti? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. In vero abbiamo reso facile il Corano che vi servisse da monito. C'è qualcuno che rifletta su di esso? كذبت عاد فكيف كان عذابي ونذر. Gli Ad tacciarono di menzogna. Quale fu il mio castigo? Quali i miei moniti? Inna arsalna alayhim rihan sarsaran fi yawmi nahsin mustamir. Scatenammo contro di loro un vento tempestoso durante un giorno nefasto e interminabile. تنزع الناس كأنهم أعجاز نخل منقعر. Strappava gli uomini come fossero tronchi di palme sradicate. فكيف كان عذابي ونذر. Quale fu il mio castigo? Quali i miei moniti? ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. In vero abbiamo reso facile il Corano che vi servisse da monito. C'è qualcuno che rifletta su di esso? كذبت ثمود بالنذر. I Thamud tacciarono di menzogna gli ammonimenti. فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي ضلال وسعر. Dissero: Dovremmo seguire un solo mortale fra di noi? Davvero in tal caso saremmo traviati e folli. أُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ. Ma come? Il monito è stato affidato solo a lui tra tutti noi? È un gran bugiardo, uno sfrontato. سيعلمون غدا من الكذاب الأشر. Domani sapranno chi è il gran bugiardo, lo sfrontato. إنا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر. Manderemo loro la cammella come tentazione. Osservali e sii paziente. Informali che devono dividere l'acqua con la cammella. Ognuno il suo turno per bere. فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. Chiamarono uno dei loro che impugnò la spada e le tagliò i garretti. فكيف كان عذابي ونذر. Quale fu il mio castigo? Quali i miei moniti? Inna arsalna alayhim sayhatan wahidatan fakanu kahashimil muhtadir. Mandammo contro di loro un solo grido. Rimasero come erba disseccata per gli stabbi. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. In vero abbiamo reso facile il Corano che vi servisse da monito. C'è qualcuno che rifletta su di esso? كَذَّبَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّذُرِ. Il popolo di Lot tacciò di menzogne i moniti. Inna arsalna alayhim hasiban illa ala Lut. Najjaynahum bisahar. Mandammo contro di loro una tempesta di pietre, eccezion fatta per la famiglia di Lot, che salvammo sul far dell'alba. Ni'matan min 'indina kadhalika najzi man shakar. Favore da parte nostra. Così compensiamo chi ci è riconoscente. وَلَقَدْ أَنذَرَهُمْ بَطْشَتَنَا فَتَمَارَوْا بِالنُّذُرِ. Egli li aveva avvisati del nostro castigo, ma dubitarono di questi moniti. وَلَقَدْ رَاوَدُوهُ عَنْ ضَيْفِهِ فَطَمَسْنَا أَعْيُنَهُمْ فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرِ. Pretendevano i suoi ospiti, ma accecammo i loro occhi dicendo: provate allora il mio castigo e la veridicità dei miei moniti. وَلَقَدْ صَبَّحَهُمْ بُكْرَةً عَذَابٌ مُسْتَقِرٌ. E in vero di buon'ora li sorprese un durevole castigo. فَذُوقُوا عَذَابِي وَنُذُرُ. Provate allora il mio castigo e la veridicità dei miei moniti. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. In vero abbiamo reso facile il Corano che vi servisse da monito. C'è qualcuno che rifletta su di esso? وَلَقَدْ جَاءَ آلَ فِرْعَوْنَ النُّذُرُ. E in vero giunsero ammonimenti alla gente di Faraone. Smentirono tutti quanti i nostri segni, perciò li afferrammo con la presa di un possente, onnipotente. أَكُفَّارُكُمْ خَيْرٌ مِّنْ أُولَئِكُمْ أَمْ لَكُمْ بَرَاءَةٌ فِي الزُّبُرِ. I vostri miscredenti o meccani sono migliori di quelli? Ci sono forse nelle scritture dell'immunità a vostro favore? أَمْ يَقُولُونَ نَحْنُ جَمِيعٌ مُنْتَصِرٌ Oppure diranno, siamo una moltitudine capace di vincere. سَيُهْزَمُ الْجَمْعُ وَيُوَلُّونَ الدُّبُرُ Presto sarà dispersa la moltitudine e volgeranno in fuga. بَلِ السَّاعَةُ مَوْعِدُهُمْ وَالسَّاعَةُ أَدْهَى وَأَمَرُ Sarà piuttosto l'ora il loro appuntamento. L'ora sarà più atroce e più amara. إِنَّ الْمُجْرِمِينَ فِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ In verità i malvagi sono nello smarrimento e nella follia. يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُوقُوا مَسَّ سَقَرَ Il giorno in cui saranno trascinati sui loro volti fino al fuoco sarà detto loro, gustate il contatto del calore che brucia. Inna kulla shay'in khalaqnahu biqadar. Ogni cosa creammo in giusta misura. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhin bil basar. E il nostro ordine è una sola parola, istantaneo come battito di ciglia. وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ Invero già annientammo faziosi della vostra specie. C'è forse qualcuno che rifletta in proposito? وَكُلُّ شَيْءٍ فَعَلُوهُ فِي الزُّبُرِ Tutto quel che fecero è nei registri. وَكُلُّ صَغِيرٍ وَكَبِيرٍ مُسْتَطَرٍ Ogni cosa piccola o grande vi è segnata. إِنَّ الْمُتَّقِينَ المتقين في جنات ونهر I timorati saranno tra giardini e ruscelli في مقعد صدق عند مليك مقتدر In un luogo di verità presso un re onnipotente